Joseph de Maistre visse la rivoluzione francese, la attraversò da giacobino e ne uscì monarchico. Sia nell'opera sua principale, il saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche e delle alte istituzioni umane, opera del 1810, che nelle altre sue opere sostiene le ragioni del nazionalismo e perora il rispetto della tradizione. Tanto chi, allorché si indaghi sull'origine dell'idea moderna di tradizione, quella che arriva sia a Sorel che al conservatorismo, con il Delamenais, con il De Bonald, ci si ricorda sempre di Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, da non confondersi con il fratello François Xavier, che è quello che da detenuto scrisse Il viaggio intorno alla mia camera. La misura dell'acutezza di Joseph può essere dedotta da una delle sue osservazioni. Dice di non sapere che cos'è il cuore di un criminale, ma assicura in compenso di conoscere bene il cuore di un galantuomo, ed è orribile. La legge che prescrive pari condizioni agli schieramenti in campo nella campagna elettorale in ordine alle loro comunicazioni ai cittadini elettori è una legge talmente orribile da far dubitare che sia davvero in atto e che qualcuno l'abbia davvero ideata ed approvata. Infligge una ferita letale alla libertà di stampa e di opinione. È insultante nei confronti degli elettori perché considera l'informazione alla stregua di un virus che li infetta senza che loro sappiano o possano difendersene, ed è pure palesemente autocontraddittoria perché definisce le parità solo per chi è già al potere, mentre chi al potere non è non concede diritto alcuno. Fra le conseguenze meno rilevanti, quelle meno rilevanti di questa legge, c'è l'atteggiamento di quei giornali sedicenti di informazione che, nello sbandierato tentativo di rimanere equidistanti, no, dai poli in lotta, vivacchiano per qualche mese piazzando in prima pagina gli articoli di compiacenti giornalisti pronti ad inchinarsi al vincitore che verrà, e dunque bene attenti a dosare i giudizi in modo che i piatti della bilancia rimangano perfettamente in linea. Un recente articolo di Piero Ostellino sul Corriere della Sera può costituirne un modello pressoché perfetto. Allora, Ostellino parte dalla credenza che alle prossime elezioni politiche si scontrino una sinistra e una destra. Per lui e per quelli come lui è sin un'ovvietà. Quando si tratta di definirle, questa sinistra e questa destra, è rigorosamente equo. Assegna 3 caratteri 3 a quella che per lui è la sinistra e ne assegna altri 3 a quelli che per lui è la destra. 3 per 1. Non contento, risale alla causa di ciascuno di questi 3 caratteri assegnati. Allora, la sinistra è egualitaria per ragioni politiche, statalista per tradizione storica e interventista in economia. Si noti la precisazione in economia, perché magari qualcuno avrebbe anche potuto pensare che la sinistra sia interventista in altra maniera, magari militarmente, per esempio in Serbia. No, e interventista per convinzioni ideologiche. La destra invece è meritocratica per ragioni politiche, individualista per tradizione storica e liberista in economia per convinzioni ideologiche. Si tratta chiaramente di una simmetria fasulla ottenuta a tutti i costi per ragioni di par condicio. La differenza tra ragioni politiche, tradizioni storiche e convinzioni ideologiche è del tutto artificiosa. Un partito o una coalizione di partiti dovrebbe distinguersi per il quadro dei propri valori, e questi valori dovrebbero informare di sé tutto l'agire umano, almeno per quanto concerne la vita associata. Il politico discende quindi dall'ideologico e la tradizione come valore, svolge l'analoga funzione del politico inteso autonomamente dall'ideologico, cioè è puro pragmatismo. Anziché azione giustificata a posteriori, è azione giustificata a priori, scelta conservatrice alla De Maistre. Oltre che di una simmetria fasulla, si tratta anche di caratteri facilmente interscambiabili. Lo stakhanovismo, per esempio, ha fatto parte della storia dell'Unione Sovietica e dunque per coloro che assimilano sinistra e Unione Sovietica dovrebbe essere classificato nell'ambito del meritocratico. Che Ostellino invece ovviamente assegna alla destra. Lo statalismo, per esempio, ha fatto parte della storia del fascismo e dunque per coloro che assimilano destra e fascismo non dovrebbe caratterizzare la sinistra. E via così. Che si tratti di un'argomentazione pretestuosa per tirare a campare è anche dimostrato poi da altre due penose pariteticizzazioni. Allora, da un lato dovremmo godere della certezza matematica, dice Ostellino, che gli stupidi, secondo una tesi qualunquistica di Carlo Cipolla, che gli stupidi sarebbero distribuiti proporzionalmente in modo uguale fra chi vota centrodestra e chi vota centrosinistra. Mentre dall'altro lato, quello conclusivo, entrambi gli schieramenti, secondo Ostellino, meritano uguale rispetto. Saggio perfetto di par condicio, con il che lo stipendio sarebbe guadagnato e il giornalista potrebbe dormire il sonno del giusto. Ma siccome qualcosa ancora gli rode dentro, ecco che ritiene necessario evidenziare la propria disponibilità ad una scelta che presto non sarà più procrastinabile. Si tratta solo di aspettare il risultato delle elezioni. Allora, dopo aver detto che entrambi gli schieramenti meritano uguale rispetto, aggiunge che in politica dopo tutto, il tempo è galantuomo. C'è chi allora rispettabile oggi fa la raccolta punti per la rispettabilità di domani. Come sa bene chi non sta dalla parte giusta della storia, il tempo non è affatto galantuomo, né in politica né altrove. Un esempio, uno fra gli innumerevoli altri. Mi butto a capofitto nella storia, ne tiro fuori gli Ugonotti. Si chiamavano così perché Eidgenosse in tedesco stava per confederati e il partito antisavoiardo ginevrino era guidato da tal Hugues Besançon. Il francese miscelò i due termini Eidgenosse e Hugues e ne fece gli Ugonotti con cui presto si venne a designare l'insieme dei protestanti. Dall'editto di Nantes firmato nel 1598, la Francia cattolica di Enrico IV si rafforza politicamente ed economicamente grazie anche alla tolleranza nei confronti della minoranza protestante. Ma nel 1679 si cominciò ad applicare una legge che consentiva soltanto ai cattolici l'esercizio dell'artigianato. Poi si escluse i protestanti dagli incarichi presso i proprietari terrieri. L'anno dopo i protestanti furono esclusi dal servizio di riscossione delle imposte e furono proibiti i matrimoni misti fra cattolici e protestanti. Nel 1682 fu interdetta la professione di notaio come qualsiasi altra attività presso la corte di Luigi XIV. Poi fu proibita loro la professione di avvocato. Nel 1685 non li si lasciò più esercitare la medicina e fu vietato loro di stampare e di vendere libri. Cominciò una campagna per ottenere la biura e il re finì con l'abrogare l'editto di Nantes. A quel punto iniziò il peggio. Stupri, torture, assassini in massa, interi villaggi distrutti e dati alle fiamme. Perdendo la gran parte dei loro averi, entro la fine di quell'anno 1685, 200.000 ugonotti riuscirono a fuggire. Festeggiavano in due. Festeggiava quel criminale di Luigi XIV che aveva rimesso un po' a posto le finanze dello Stato e la Chiesa Cattolica. Ma per qualcuno il tempo è galantuomo. Forse basta avere l'accortezza di non fargli fretta. A Roma oggi, per il momento intanto, potenza a cui si inchinano tutti i potenti, c'è il Papa Cattolico. Che briga, che disbriga, che benedice, che maledice, che pontifica, che ci mette becco, che guai a toccarlo, vaticanamente extraterritoriale, sia che si tratti di pedofilia, di strozzinaggio, di elettromagnetismi, c'è e ha l'aria di starci ancora per un bel po' alla salute degli ugonotti. L'antropomorfizzazione del tempo è la massima espressione dell'ideologia dello scaricabarile. Non c'è limite all'azione, non c'è neppure il soggetto dell'azione. Una provvidenza senza Dio che incarna l'unica vera professione di fede della borghesia. Thank you.